Eccoci qua, siamo tornati in diretta su Radio Wombat con una nuova ospite. Direttissima. Una nuova ospite che stiamo trattenendo dal pranzo. Stiamo impedendo di cibarsi, quindi con diversi problemi che succederanno, perché se non si mangia, come si sta, bene o male? Male. Si rimette di salute. E è proprio questo che ci verrà a raccontare Martina. Martina che lavora in un gruppo che si chiama, che ha il nome Gruppa, se non erro, che sta per... Sta per gruppo permanentemente aperto, ed è anche appunto il femminile di gruppo, per porre l'attenzione sulla questione di genere. Benissimo. E quando siete nati, da quanto lavorate insieme? Allora, la gruppa è appunto una rete nazionale di persone che in realtà da vari anni, non saprei neanche bene definire un inizio, forse le origini sono nel 2006-2007, è nato appunto da vari momenti di riflessione, di autoformazione di studentesse e studenti di medicina principalmente. E da lì, diciamo, 3 anni fa, abbiamo cambiato il nome varie volte. 3 anni fa abbiamo assunto un po' questa definizione di gruppa per mettere l'accento appunto sull'apertura come il cuore un po' dell'esperienza, e appunto sulle questioni di genere. Come uno dei determinanti principali di salute. È un gruppo che si occupa appunto di salute e malattia. E, quindi a partire da, appunto dal modello che prevede i determinanti di salute, giusto? Sì. Sì, parte dalla critica alla biomedicina, cioè la medicina che viene insegnata nell'università e che troviamo negli ospedali, nei servizi, che è una medicina tutta fondata su una visione biologica riduzionista, no, della persona, e che separa corpo e mente e tante altre cose, per diciamo, da qua mettere anche in discussione la relazione medico-paziente, e anche, diciamo, che è corrispettiva alla relazione docente-discente nei contesti formativi, in cui c'è un attore passivo e un attore invece esperto. Esattamente. Perché se non erro, io ho un po' questo argomento mi sono interessato un po' a questo argomento, e la questione dei determinanti di salute sono... Ce la vuoi spiegare un attimino? Sì. Perché è il nodo fondamentale, se non mi sbaglio, giusto? Che, sì. A partire dal concetto di salute, che voi... Come lo definite il concetto di salute? Esatto. E come un processo... La salute come processo, e la salute e la malattia, no? Che stanno sempre insieme, come processo che si produce nella società, a partire appunto da quelli che sono definiti da tanti anni ormai, anche a livello internazionale, da grandi organizzazioni come l'Organizzazione Mondiale della Sanità, i determinanti sociali di salute, che sono la casa, il lavoro, le reti sociali, fino a il più ampio contesto politico, economico, sì, e culturale, che di fatto determina la distribuzione diseguale delle risorse, no? Della casa, del lavoro, delle reti sociali, eccetera. Quindi c'è un livello, diciamo, che è strutturale, prima veniva definito distale, come se fosse più distante dalle persone. In realtà oggi si parla di processi strutturali, perché in realtà non sono distanti, fanno parte del nostro corpo, delle nostre vite, semplicemente che non si mettono in discussione, non si possono cambiare da un giorno all'altro, no? Sono strutturali, ci strutturano. Certo. E distribuiscono in maniera diseguale le risorse appunto tra le persone. Esattamente, questo modello io l'ho sentito definire a cipolla, perché appunto se mette al centro della cipolla ci mette la persona, e poi tutti i determinanti sono come i vari strati che circondano il cuore della cipolla e dai più vicini ai più lontani, appunto dai più prossimali ai più distali, sono più vicini o più distanti a seconda di quanto si può incidere cambiandoli sulla persona. Sì, se non mi sbaglio. Sì, c'è un aspetto importante secondo me da sottolineare su questo, perché in realtà appunto è un passaggio successivo, diciamo, cioè che un po' fa da critica tutta quella che è la retorica degli stili di vita sani, no? Cioè, se teniamo questo ragionamento, cioè ci porterebbe a pensare che quello su cui agire è il proprio stile di vita in primo luogo, no? Che sicuramente è vero, cioè l'alimentazione, fare sport, fare attività fisica, non fumare, non bere, eccetera eccetera. Dopodiché sappiamo che anche questo è legato alle possibilità di accesso a determinate risorse, anche in termini di reti sociali, non solo di risorse materiali che ognuno di noi ha e che diciamo sono appunto il frutto di una distribuzione diseguale del potere. Quindi questo discorso a cipolla è semplificatorio in qualche modo, è funzionale un po' a capire il meccanismo, però teniamo in mente il fatto che in realtà è agendo sui processi strutturali che a cascata determiniamo un cambiamento, certo, nello stile di vita delle persone. Assolutamente. Se no si riproduce un po' quella pratica iperresponsabilizzante individualista del singolo e della singola che deve essere, no, sempre, certo, sana. Si può fare l'esempio che ti dice appunto non bere, non fumare, si può stare attenti a non bere e non fumare, ma se accanto abbiamo un'industria che produce sostanze inquinanti, voglia bere, non bere, non fumare, ma comunque siamo contaminati e non è certo agendo su dei piccoli fattori che riusciamo a incidere, ecco, sul nostro benessere. Volevo chiederti poi, appunto, voi siete una rete, e come lavorate, che cosa, in modo pratico, che cosa fate per portare avanti questo concetto che fatica di fatto a inserirsi nel contesto sanitario anche italiano e anche più in generale. Infatti ci dicevi anche che Group è un po' la diramazione italiana di una rete internazionale, il People Health Movement. Esatto, sì, è nata appunto l'esperienza della gruppa, appunto ha origini in questi percorsi di autoformazione, come incontri come potevano essere quello di oggi, sottogruppi di lavoro eccetera eccetera, e appunto 3 anni fa abbiamo un po' colto l'occasione. Noi facciamo parte appunto di questa rete internazionale che si chiama People's Health Movement, Movimento dei Popoli per la Salute, abbiamo colto un po' l'occasione di questo progetto che stava facendo appunto il People Health Movement, un progetto di ricercazione il coinvolgimento dei movimenti e della società, delle realtà della società civile nella promozione della salute, cioè qual è il ruolo dei movimenti nella promozione della salute, tenendo questo quadro dei determinanti sociali di salute, che è quello appunto che ci rispondeva. E ci risponde. Quindi 3 anni fa abbiamo iniziato questo percorso di ricercazione, una ricerca che parte dalla riflessione su quello che accade, sulle azioni, no? Nella pratica come l'abbiamo tradotto? Abbiamo iniziato partendo un po' da quello che era più vicino a noi, quindi eravamo a quel tempo una 30ina di persone, di quali movimenti facevamo parte, con quali movimenti eravamo in contatto, che nella nostra visione agivano nella promozione della salute, tra cui esperienze come nel campo appunto dell'occupazione dei territori, della sovranità alimentare, nell'ambito dei teatri, della produzione di cultura, ambulatori popolari, collettivi transfemministi e queer, cioè tenendo appunto molto volutamente ampio il campo. E abbiamo iniziato a fare delle interviste, perché il progetto prevedeva di fare delle interviste come un po' strumento di aggancio, strumento di scambio un attimo, di confronto sulle esperienze dei movimenti, quindi in un'ottica di salute, che cosa stavano facendo in quel momento e anche con tutta un'attenzione alla sostenibilità, cioè come si sostenevano sia in termini materiali che immateriali. E da lì, diciamo, questo percorso è durato il primo anno e mezzo, quindi 2014-2015, metà 2015. Dopodiché abbiamo fatto all'interno della gruppa un'analisi collettiva di queste interviste e di altri momenti di confronto che avevamo avuto con queste realtà, con tante realtà sparse appunto in Italia, e anche molti comitati, NOTAP, NOTAV, eccetera, adesso pian piano mi vengono tutte in mente. E abbiamo fatto un'analisi collettiva di vari incontri, vari momenti, per capire quali erano i nuclei un po' centrali delle criticità, soprattutto sia punti di forza che criticità che queste esperienze trovano nel portare avanti la propria lotta, fondamentalmente, che nella nostra visione è una lotta per la salute. E sulla base di questo, nell'ultimo anno e mezzo invece abbiamo organizzato quindi tre incontri aperti. Il primo è stato a Bologna, il secondo a Napoli e il terzo a Roma, su tre tematiche che avevamo appunto, per noi erano dei nuclei centrali. A Bologna abbiamo affrontato la questione del dentro e fuori dalle istituzioni, quindi partendo dall'esperienza di ambulatori popolari autogestiti, ma appunto dicevo anche trasversali, per noi la questione della sperimentazione di esperienze autogestite nel campo della salute va di pari passo con la difesa di un sistema pubblico che stanno smantellando, privatizzando, eccetera, e che però è fondamentale. E per quanto vada trasformato, va anche difeso. E quindi, nel senso, questo primo momento è stato proprio di scambio tra persone che lavorano dentro i servizi sanitari e persone che appunto agiscono nel campo di esperienza autogestita, a volte tutte e due, e quindi confrontarsi se questo discorso dentro e fuori dalle istituzioni, no, un po' non ci stava intrappolando e forse potevamo ragionare su altri piani di azione che li tenessero insieme. Il secondo incontro a Napoli è stato su gli spazi, quindi spazi in termini sia materiali che simbolici, quindi come costruire spazi aperti, spazi comunitari e anche in che modo questi percorsi delle singole esperienze si possono mettere insieme per avere anche un impatto, no? Ragionare anche in termini di valutazione dei percorsi e di impatto. E appunto questo è stato un po' il cuore, detto proprio in poche parole. E l'ultimo incontro, che è stato questa primavera estate a Roma, ha toccato un punto per noi un po' il cuore, forse centrale, che riguarda la sostenibilità in termini appunto sia di sostenibilità anche qua materiale e materiale, cioè come e interna ed esterna, cioè come le esperienze autogestite si sostengono in termini materiali, come le persone che fanno parte delle esperienze autogestite e che vogliono fare anche di questo uno spazio di lavoro, di reddito, di qualcosa che non sia tipo l'ultima cosa che fai durante la giornata quando ti rimangono 2 ore di tempo, come si sostengono, ma anche in termini di sostenibilità dei percorsi, quindi come dare continuità. Certo. Questo perché una delle questioni che è venuta fuori in maniera abbastanza scioccante dalle interviste era l'esperienza di malessere, di frustrazione delle persone che fanno parte dei percorsi autogestiti. Quindi costruiamo queste esperienze per stare bene e stiamo male. Quindi c'era un po' di... Per poi dover, sì. Bene, molto bene. No, infatti estremamente attuali, sì, tutti gli argomenti. Assolutamente. Io vorrei domandare, per chi volesse seguire e continuarvi a seguire, ci dai intanto qualche riferimento? Sì, noi volevo dire, il percorso è ancora aperto, sta continuando e continuerà, e in questo momento appunto siamo per tenere insieme tutti questi piani stiamo un po' facendo un percorso anche nostro di riflessione interna su quelle che poi abbiamo chiamato le pratiche del comune in salute, cioè sì, che toccano tutti questi piani, comunità, istituzioni, cos'è tecnica, eccetera, eccetera, scambio di saperi, costruzione di spazi di cura, Quindi noi abbiamo un sito, un blog dove si può trovare anche, si può scaricare il report che abbiamo scritto sempre collettivamente di questa prima parte della ricercazione. Arrivo. Che lo cercate su Google, gruppa. Ecco, allora, il sito gruppa.phm.noblogs.org. E per la mail invece abbiamo, per essere inseriti nella mailing list o semplicemente chiedere informazioni, progetto PHM, che sarebbe appunto People mail. Health Movement, quindi progetto PHM @inventati.org. Ripetiamo perché ti ho parlato sopra, gruppa.phm.noblogs.org è il sito. Giusto. Esatto. Bene. Ti ringraziamo tanto. E ti mandiamo a mangiare. Grazie, grazie a voi, complimenti per la radio. Ciao, buon proseguimento. Viva, ciao. Grazie, ciao. Viva gruppa. Ciao.